Identikit, una bellissima ballerina con i capelli lunghi lunghi, riccioli, spesso l'avete vista in televisione. È Simona Azzori, ballerina, pittrice, scrittrice e questo è il suo terzo libro, è uscito proprio qualche settimana fa. Ma spesso per parlare di lei e identificarla con più precisione si aggiunge anche un'altra cosa. Simona è nata senza braccia. Noi da poco abbiamo avuto il privilegio di conoscerla di persona. È stata ospite nella nostra comunità. Tra le sue tantissime doti sicuramente c'è anche quella di saper comunicare in un modo tutto particolare. Schietto, diretto, genuino. E allora ho provato a chiedermi quali sono gli ingredienti che rendono così speciale la comunicazione di Simona. Ne ho individuati almeno 4, se la conoscete e ve ne vengono in mente altri, scriveteli nei commenti. Primo, il sorriso, sempre e comunque. È il suo primo biglietto da visita. Come quando racconta di quella volta che d'estate stava per salire su una barca e un uomo le è venuto incontro per aiutarla. E lei aveva una magliettina senza maniche. E aveva i capelli tirati in su, per cui era chiaro che non avesse la possibilità di dargli la mano. Lei continuava a sorridere e lui continuava imperterrito. Signorina, non mi dà la mano? Alla fine lei ha ben dovuto dire, ma io non ho le braccia. E Simona raccontava, come mai a volte le persone non si accorgono che non ho le braccia? Forse a causa del mio sorriso. Effettivamente è così. Quando la incontri, la prima cosa che noti di lei è proprio il suo bellissimo sorriso che ti incanta e ti colpisce. Secondo, l'autoironia. All'incontro in parrocchia c'erano tantissimi bambini e lei era disponibile e felice che le facessero qualsiasi domanda. Potete immaginare, domande a tratti anche imbarazzanti per noi adulti. Ti vesti da sola? Come fai? Simona rispondeva sempre con un grande sorriso. Ma lavi i piatti da sola? Veramente i piatti di solito me li lava la lavastoviglie. E continuava a sorridere. Simona sa ridere di se stessa e non si prende troppo sul serio. E questo le dà un carisma veramente particolare. Terzo, il basso profilo. Quando Simona racconta non vuole convincere, non alza mai la voce. Non vuole che altri entrino per forza nel suo modo di vedere le cose. Semplicemente si pone così come è, senza imporsi, parlando lentamente, facendo tante pause, non alzando mai il tono del discorso, semplicemente proponendosi con una grande serenità e anche umiltà. Quarto, forse quello che mi ha colpito di più, Simona sa raccontare la propria interiorità e la propria intimità anche nei suoi aspetti più fragili, senza paura di essere giudicata. È difficile per tutti raccontare le proprie cadute, le proprie sofferenze. Simona sa farlo, come se stesse parlando con l'amico più intimo, che sia nel suo libro, che abbia di fronte 500 persone. Ad esempio, verso la fine del suo ultimo libro scrive così: «Ti ho fatto entrare nel mio intimo più profondo. In alcuni passi ti ho anche offerto le chiavi della mia anima. L'ho fatto senza timori, sentendomi in ottime mani. Spero che tu abbia accolto questo mio dono con il cuore aperto». Ed è veramente così. Ad esempio mi ha colpito tantissimo quando racconta che un giorno era rimasto il sacchetto della carta per la raccolta differenziata appeso al suo cancello. Ma poi è arrivato vento e brutto tempo. Tutta la roba che c'era dentro si è sparsa per terra e lei era sola in casa in quel momento e guardava dalla finestra e si chiedeva che cosa faccio adesso? Dovrei andare a raccogliere la carta che è caduta, ma come faccio? C'è bagnato, devo sedermi per terra per raccogliere tutto con i miei piedi, mi bagnerò, sarà umiliante fare tutto questo. Ma Simona ha deciso di andare. E così è uscita fuori, ha iniziato. A un certo punto una persona dalla casa accanto le ha detto: «Simona, lascia stare, poi vengo io ad aiutarti, dai, torna a casa». E così lei ha ringraziato, si è alzata ed è ritornata in casa. Un episodio tutto sommato quotidiano, molto piccolo, ma Simona sa raccontarlo mostrando quella fragilità che in quel momento lei stava vivendo e stava sentendo sulla sua pelle, e fa tutto questo con grande serenità. Se leggerete i suoi libri o se vedrete qualche suo incontro su YouTube, ce ne sono veramente moltissimi, vedrete come Simona è capace di fare questo, donare la propria interiorità, anche fragile, senza paura, con grande coraggio. Simona dice sempre che Dio l'ha disegnata così, con lunghissimi capelli biondi, senza braccia, con due piedi che fungono da mani, e con un cuore grande, capace di donare e comunicare moltissimo.